fondo con le mani. Potevi farci un sacco di cose, un sacco di cose. Il mio numero da chiamare, portare fuori il cane, ordinare da mangiare. Invece te ne vai lontano, mi saluti con la mano. Sì, con la mano, ma di un altro. Invece te ne vai lontano, poi ti giri piano piano. Sì, con lo sguardo, ma di un altro. Oh, oh, oh, oh, oh. E in fondo sotto sotto sotto sto bene, sotto sotto sotto sto bene. Oh, oh, oh. E in fondo sotto sotto sotto stai bene, sotto sotto sotto stai bene pure te. E poi ci ritroveremo ancora, poi, come quando mi stai sopra. Sotto, sotto, sotto sto bene, sotto, sotto, sotto sto bene. Oh, oh, oh. E in fondo sotto, sotto, sotto stai bene, sotto, sotto, sotto stai bene pure te. Potevi farci un sacco di cose, un sacco di cose. E glielo dici tu che questa notte non mi drogo, e che sto male anche da solo, che da solo non mi trovo. E che cammino avanti e indietro sotto casa tua da ore, che tuo padre ha rotto il cazzo di guardarmi male. Come quando mi stai su.